Il punto di Stefano Folli. Quali che siano stati i suoi comportamenti, certo inopportuni, l'ormai ex ministro Annunzio De Gerolamo non merita il dileggio a cui è stata sottoposta e che continua ora che è caduta secondo un certo stile molto italiano. Riguardo le conseguenze delle dimissioni c'è una semplice osservazione da fare. Se un governo è forte e compatto, l'uscita di scena di un ministro, oltretutto non dei più importanti, non produce effetti di rilievo. Il premier lo sostituisce senza problemi o al massimo tiene per sé l'interim. In questo caso però il governo Letta è debole e si trova in una fase molto delicata del suo percorso. Peraltro la De Gerolamo appartiene al partito di Alfano, che è già sottoposto a una crescente pressione a opera di Renzi. E allora queste dimissioni rischiano di essere il classico sassolino che rotolando provoca una valanga. Magari non sarà così, ma dipende da Letta e dalla sua capacità di riprendere in mano i fili con sollecitudine. L'attendismo non sempre paga in politica.